Linee d'ombra di Matteo Caccia. Loro mi hanno battezzato due volte, una volta perché sono nato in quella maniera e dicevano che io sarei morto la notte, e poi mi hanno ribattezzato, io mi chiamo Giacomo, per due volte quando sono cresciuto. La mia culla era una scatola di scarpe e per tenerla calda era arredata con del cotone idrofilo. In quei momenti ero alla mercé del gatto perché credeva che fosse un grosso topo. Storia di un pugile cresciuto nonostante tutto e di una delle più grandi tenniste della storia, in una puntata che si intitola Oltre ogni ragionevole difficoltà. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno. Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente dentro. Adesso, il sinistro. Sfinirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. Farà quello che gli dici di fare e nient'altro. Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario. Dovete abbassare, devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua, così. Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. E come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare e fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta, e ancora, e ancora, e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni. È preso da Million Dollar Baby questo pezzo, questo monologo che nel film recita Morgan Freeman, anche se il film è interpretato e diretto da Clint Eastwood e c'è una straordinaria e giovanissima Hilary Swank che fa appunto la boxeur che fa pugilato. Apriamo con questo pezzo questa puntata di Linee d'Ombra perché la puntata si intitola Oltre ogni ragionevole difficoltà e devo dire che il titolo sembra quasi ispirato al momento che stiamo vivendo, che per mille motivi, per il fatto che la parte sanitaria è stata in grandissima difficoltà e lo è ancora la parte sanitaria di questo paese, ma poi le mille difficoltà quotidiane delle persone che si sono ammalate, e lo stiamo raccontando giorno dopo giorno con la storia seriale che chiude ogni puntata di Linee d'Ombra, anche questa la sentirete in chiusura di puntata, la storia di Irene che si è ammalata insieme al marito, cosa che ovviamente è successa tantissimo perché è una malattia di prossimità che contagia le persone che ti sono vicine, e quindi noi vi stiamo raccontando la storia di Irene e di suo marito che si ritrovano quindi prima chiusi in casa e poi in un ospedale insieme, prima separati e poi nella puntata di oggi scopriremo che riescono ad essere insieme. E appunto, oltre ogni ragionevole difficoltà, però, oltre a fotografare questo momento, fotografa anche le storie che stiamo per raccontarvi, e abbiamo aperto con Million Dollar Baby di Clint Eastwood perché c'entra anche il pugilato in questa puntata e con la prima storia, anche perché poi effettivamente se pensiamo a tutti i film di pugilato, a tutte le storie di pugilato da ovviamente da Rocky, ma anche c'era un film che mia mamma mi faceva vedere sempre, credo si chiamasse The Champ, un film in cui c'era un padre con un figlio e lui era un pugile, insomma le storie di pugilato sono tantissime, le storie di pugilato assomigliano un pochettino alle storie di ciclismo, storie in cui gli atleti fanno una fatica incredibile, inenarrabile, nel ciclismo fanno solo fatica, nel pugilato le prendono anche, quindi se vogliamo è anche meno divertente, già non lo è di per sé fare fatica, figuriamoci se l'obiettivo di quello che hai di fronte è cercare di riempirti di botte. Poi adesso so che gli amanti del pugilato avranno qualcosa da ridire, ma tant'è, sono comunque sport di enorme fatica, e quindi la puntata di oggi racconta storie di lotta, storie di persone che in qualche modo grazie alla fatica sopravvivono, storie di si direbbe adesso, visto che si usa tantissimo, storie di resilienza, cioè storie di persone che prendono dei colpi, li accusano, li assorbono e li restituiscono, e quindi restituiscono forza a quello che dal colpo che hanno ricevuto. Ci sarà una storia come questa appunto nel primo racconto, la storia di un ascoltatore che ha a che fare anche proprio con il pugilato, e nella seconda storia invece racconteremo l'avventura, la disavventura di Monica Seles, perché esattamente 27 anni fa, cioè il 30 di aprile del 1993, 2003 Monica Seles, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, veniva vigliaccamente colpita fisicamente su un campo da tennis da un tizio, da un folle che la accoltellava. Sono immagini che insomma si ritrovano molto facilmente. Monica Seles, dopo aver incassato quel colpo tremendo, in qualche modo con grande fatica si è risollevata. Non è tornata ad essere l'atleta di prima, ma in qualche modo ce l'ha fatta, oltre ogni ragionevole difficoltà. Benvenuti a Linea d'Ombra. Mi chiamo Giacomo e vivo a Nettuno, in provincia di Roma. Nasco nel 1943 in un paesino della Sardegna chiamato Burgos, in provincia di Sassari, da padre emiliano e madre sarda. Mio padre era un ex sottufficiale dell'esercito. I miei, pur vivendo a Macomer, in un centro di smistamento ferroviario importantissimo, quando nasco io si trovano a Burgos, dove sono sfollati per la guerra. Mia madre, inoltre, anche se incinta, si deve occupare di sua madre, allettata, con la pleurite, ed essendo la primogenita, anche dei suoi 6 fratelli e sorelle. Nasco alle 13 circa, sotto i bombardamenti degli alleati, perché sfortunatamente la casa in cui stavamo si trovava proprio nei pressi di una stazione ferroviaria. Nasco prematuro, di 7 mesi, peso meno di 1 chilo, esattamente 750 grammi. La levatrice mi battezza sul posto perché è sicura che non riuscirò a vivere più di un giorno o di una notte. Mia madre mi ha sempre raccontato che le era stato consigliato di non darmi nemmeno un pasto per non farmi soffrire troppo e chiudere la questione il più in fretta possibile. Nello sconforto della famiglia, il medico viene mandato via in malo modo. Mia madre me le ha sempre dette queste cose perché ho avuto un grande rapporto con lei. Mia madre era molto romanticona, era sarda, di origine sarda, perché anch'io sono nato in Sardegna, lei era sarda, però è nata a me. Era molto dolce, sapeva ricamare molto bene, lavorava ai ferri con quattro ferri, un lavoro che oggi non si fa più, perché praticamente bisognava prima preparare tutto il lavoro su dei quaterni con delle sigle che faceva lei, e dopodiché come una persona che suona uno strumento, doveva leggere lo spartito e andare avanti. Io ho dei centri stupendi. La mia grande fortuna è stata mia nonna, che fino a che non è morta mi ha fatto da incubatrice. Tant'è vero che nei momenti che mia nonna aveva bisogno di alzarsi, la mia culla era una scatola di scarpe e per tenerla calda era arredata con del cotone idrofilo. In quei momenti io ero alla mercé del gatto perché credeva che fosse un grosso topo. Per farmi il bagnetto tutti i giorni ci volevano 2 persone e siccome il mio palato non era ancora del tutto formato, non mangiavo dal petto di mia madre, dunque mi nutrivano con una contagocce. Malgrado i loro sforzi mi alimentavo poco e rigettavo tutto. Il mio intestino era come un piccolo gomitolo di filo. Di conseguenza la mia pelle subiva una condizione che non so descrivere. Tutti i giorni cambiavo questa specie di pelle, sino a quando l'amore di mia madre non scopre che l'unica cosa che riuscivo a digerire bene era il succo d'arancia. Mio padre andò in cerca di arance allora, pagandole a caro prezzo e perfino barattandole con i salumi della sua terra, l'Emilia. È così che mi sono salvato. Teardrop on the fire, feel that summer. Passa il tempo e riesco a fare i primi passi all'età di 2 anni. Finisce la guerra, i miei ritornano a Macomer, faccio una vita normale. Resto gracilino di costituzione, ma molto forte, molto vivace. Passano gli anni e mio padre, dopo aver cambiato molti lavori, rientra nell'esercito come civile. Essendo un ottimo elettromeccanico, per motivi governativi, viene trasferito a Nettuno presso il poligono militare più grande d'Europa. Mio padre aveva una sola aspirazione nella vita, che i suoi figli potessero crescere in continente. E un giorno, durante una processione, chiese questa grazia con la promessa che avrebbe donato alla chiesa di Macomer una statua della Madonna al posto di un vecchio quadro. Ma la sua domanda di trasferimento era per Santa Marinella, oppure per Fregene, o per Civitavecchia. Non sapeva che in quei centri militari non c'erano più posti per lui. Rimase la possibilità di spostarsi a Nettuno, dove scoprì che esisteva un santuario con le spoglie di Santa Maria Goretti, proprio la santa a cui aveva chiesto la grazia. E così ci trasferimmo a Nettuno. Avevo 10 anni. E qui io, ancora oggi, qui mi sono fatto tutto il paese amico. Ultimamente mi hanno addirittura premiato con qua chiamato il Fervente d'Oro. Il Fervente d'Oro che viene dato ad agosto alle persone più operose nel paese, più in vista, più ai personaggi, diciamo così. Passano gli anni. A 16 dico ai miei che frequento una palestra di pugilato, ma loro non sono affatto d'accordo. Per ottenere ciò che desidero, dormo per 3 giorni dentro una barca in disuso, essendo Nettuno una cittadina di mare. Entro in palestra come peso mosca. In 8 anni disputo circa 50 combattimenti, perdendone 7 e girando l'Europa classificandomi 4° alle pre-Olimpiadi per Tokyo, per mia negligenza e anche perché era veramente difficile mantenere il peso. I pesi leggeri poi, anche se bravi, da professionisti non ottengono borse che ti danno la possibilità di mantenere una famiglia in maniera concreta. Contemporaneamente faccio diversi mestieri, cambiavo spesso perché quando andavo all'estero per gli incontri, al rientro avevo sempre delle complicanze con i datori di lavoro. Anche per questo motivo rinuncio a fare i campionati mondiali e mi ritiro dallo sport. Riprendo il mio lavoro di restauratore di mobili antichi, apro una mia attività, dopo 40 anni di piacevole lavoro oggi sono in pensione. Oggi dipingo, scrivo poesie in romanesco, ma il pugilato non l'ho mai dimenticato. A bruceful moon, play fights with the stars. This place is our prison, it sells the bar. So take me to town, I wanna dance with the city. Show me something ugly and show me something pretty. Damn, this place makes a boy out of me. The rain beats my face by the campfire. Attracted to the light, attracted to the heat. It's a violent night, there are boxes in the street. Makes a boy out of me. La puntata di oggi si intitola Oltre ogni ragionevole difficoltà e direi che l'avete capito il perché si intitola così. Perché la storia di Giacomo è una storia bellissima. Noi di solito non raccontiamo delle biografie all'interno di Linee d'Ombra, raccontiamo degli episodi. Quella di Giacomo però è una storia molto complessa che parte da molto lontano e non potevamo non prenderla e raccontarla tutta. Pronto, ciao Giacomo, buongiorno. Ciao, buonasera. Come stai? Molto bene, grazie. Sono logicamente a casa perché dobbiamo stare a casa, ma non ci sono problemi. Senti, tu sei stato un restauratore di mobili, ma lo fai ancora? Ti capita di farlo ancora o basta? No, no, 76 anni. Faccio ancora qualche lavoro e mi chiamano per cose un po' belle, queste cose qua. Mi scelgo i lavori, però non c'ho un lavoro fisso come ce l'avevo prima. Cioè non c'ho più il laboratorio, l'ho chiuso. Okay. Logicamente, non ho più la forza di fare quel lavoro. Senti, invece dimmi. Adesso Nettuno... Ti piace come posto dove vivere o vorresti tornare in Sardegna? La Sardegna mi è rimasta nel cuore perché ancora mi ricordo il vento della Sardegna, i profumi, il mare, però Nettuno è a 60 km da Roma, non solo, ma c'è un mare e un clima stupendo. Poi siamo una cittadina di 50.000 persone ed estate diventiamo anche 80.000, non siamo pochi. È un bel posto, c'è un bel porto di mare, un bel porto come si dice questo? Turistico. Vabbè. Un po' turistico, brava, certo, sì, ecco, dimmi incontro quando vedi che mi inceppo. va bene, ci proverò. Giacomo, senti, tu ti ricordi ancora dei dettagli incredibili, cioè quello della scatola da scarpe è pazzesco. Cioè, a me me l'ha raccontato mia madre. Praticamente hanno messo dello latta e mi tenevano lì dentro perché io poi non avevo vestiti, niente, stavo nudo perché erano talmente piccolo che non mi potevano vestire, niente, c'era il gatto che mi dava la caccia perché si credeva che era un truccio. Giacomo, a che punto della tua giovanissima vita i tuoi genitori hanno capito che saresti sopravvissuto? Cioè, quanti mesi avevi quando loro hanno capito? Non ci hanno pensato due volte, hanno preso a petate il coso, come si chiama, questo è quello che mi raccontava, hanno preso a petate il dottore e mia madre piano piano cercava di allattarmi, ma siccome il latte non lo sopportavo, trovava tante cose per un tipo di genio come me. A un certo momento ho scoperto che il succo d'arancio mi faceva digerire tutto e quello mi ha dato per 2 anni la forza, perché praticamente avevo lo stomaco piccolissimo, sì. Invece il succo d'arancio penetrava da solo, c'era la vitamina C eccetera eccetera, e io sono arrivato a 2 anni, ho camminato a 2 anni, però dopo sono stato il disco. Senti, poi infatti, perché poi sei diventato addirittura un pugile, quanti incontri hai fatto di pugilato? Io ho fatto 53 incontri, ne ho persi 7, ma per mia cattiva volontà, perché io fumavo, era un po' di scoletto così, no? Mi chiamavano nicotina, ma io sono stato un preolimpionico, ho vinto 48 match, poi qualcuno l'ho pareggiato, però sei stato a tanto così dall'andare alle Olimpiadi di Tokyo. Esatto, ma ho perso, quello è stato un incidente, ho preso un cassotto dritto al mento, sono andato giù KO, siccome quando si fanno le selezioni per le Olimpiadi si fanno i cosiddetti quadrangolari, okay. Questi quadrangolari chi perde ritorna a casa, io ho preso un cassotto 13 secondi dal gong e sono andato per terra. a freddo, è stata una cattiva esperienza perché io avevo un maledetto vizio che per scaramanzia, da scaramantico, toccavo l'avversario e abbassavo la guardia. Quello si vede che aveva studiato questa cosa, ha fatto un passo indietro, mi ha messo un diretto in bocca e io sono andato per terra. Cioè, scusami, tu ti avvicinavi, lo toccavi e abbassavi la guardia? Esatto, io mi avvicinavo, abbassavo la guardia, lo toccavo, così gli davo una schiaffetta, no? Era proprio una mia abitudine. Poi ritornavo indietro e mi mettevo in guardia e cominciavo il combattimento. Siccome io ho sempre combattuto di rimessa, non sono stato mai in altre... pur essendo un mancino, ero proprio tutto all'incontrario, ero un ambidestro. Com'è che da una carriera da pugile professionista sei finito a fare restauratore? No, io non sono stato mai professionista. ho fatto 50 match tutti da dilettante, poi ho smesso proprio perché sapevo, ho visto che, non so, tu sei ragazzo forse, non lo so, ma a quei tempi Boruni addirittura ha dovuto quasi pagare lui per avere per il titolo mondiale, per riprendersi il titolo. Là, i paesi piccoli c'erano pochi soldi, non potevo fondare una famiglia, e allora ho preso e ho lasciato stare, insomma, ho preso, smesso. E come ti sei avvicinato al mondo del restauro? Al mondo del restauro mi ci sono avvicinato perché lavoravo, prima facevo il tappezziere, poi un giorno lavoravo a Roma, c'era un vicino un po' più giù di me, c'era un signore con un cappello sempre la 23, si metteva tutti i quadri fuori, e vedevo sto tizio un giorno, insomma, mi sono scocciato, ho detto: senti, che mi prendi a lavorare? Dice: beh, questo. Poi si è svelato che quando lui aveva il cappello dritto era ubriaco, però era un grande artista. Difatti io faccio restauratore di mobili, faccio doratore, dipingo santi, insomma, nel mio campo addirittura ho lavorato anche nel campo della nautica, negli interni, quando ci sono delle volte le barche rimangono alla fonda, sì. E si crea, entra la luce, se non se ne accorgono, entra la luce del sole e lascia il segno dello blò, allora il legno si rovina, allora certo. Bisogna andare là e piano piano accompagnarlo, bisogna saperlo fare. Ma come si dice in gergo, ci vogliono le scatole per fare quel lavoro. Anita mi diceva, e poi ti lascio andare, ti saluto Giacomo che stiamo chiudendo, Anita mi diceva che tu addirittura hai restaurato una pala, una Madonna del 300, una pala, sì, di 2 sì. metri per 2. Dunque, noi ci abbiamo a questa Madonna dal 300 ed erano 50 anni che volevano rifare la pala dietro, è una raggiera, cioè sai il sole, la raggiera, sì, sì. È una cosa enorme, bellissima, wow. Soltanto ecco, da noi si fa la festa la prima domenica di maggio, si prende la Madonna e si porta in una chiesa, poi da quella chiesa si riporta al posto suo, perciò dura una settimana, uh-huh. E in quel momento e il lavoro mio lo vedono 50.000 80.000 persone, e questo meraviglia. Mi ha portato all'euforia proprio, capito? Come ultimo lavoro della mia vita. Immagino. In lamina, l'ho fatto, non pitturato, sì, sì, chiaro, in lamina chiaro. Di argento dorato. Giacomo, ti ringrazio. Dimmi. Davvero tanto per la chiacchierata che abbiamo fatto e per la storia che ci hai mandato. Sappi che quando vuoi mandarci qualche storia, noi siamo qua, l'indirizzo lo conosci. Grazie mille. Ciao Giacomo, bene. Buona giornata, presto. Ciao, grazie mille. Get hung up on some minor shit. I will help to comfort you until I'm losing it. Take the time to memorize. And before your eyes I'll disappear. Well, I'll be there to watch you slip into. si intitola Oltre ogni ragionevole difficoltà, la puntata di oggi, e avete anche capito probabilmente la motivazione, perché la storia che ci ha raccontato Giacomo davvero parla di una persona che è rimasta aggrappata alla vita grazie anche alla nonna, grazie agli aiuti della madre, grazie a quelle arance, e va oltre qualsiasi difficoltà che noi possiamo immaginare il sopravvivere a tutto ciò. Lo ringraziamo per averci raccontato la sua storia, lo ringraziamo per la sua telefonata, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi continuiamo a raccontare una storia che ha proprio questo tema, oltre ogni ragionevole difficoltà. Linee d'ombra. La prossima storia che vi raccontiamo parla d'altro, come sempre facciamo, cerchiamo di mettere insieme due storie, una che arriva da voi, da voi ascoltatori, linee d'ombra@radio24.it, e una invece che troviamo ovunque, in giro, nelle storie biografiche, nei libri, nei documentari, nei film, tutte storie vere, ovviamente. E questa storia non arriva dal cuore della Sardegna, ma arriva da una serie di campi da tennis, e inizia così. Quando sei una ragazzina di 16 anni, cresciuta a dritti e rovesci, che tutto d'un tratto si trova catapultata nel mondo dei grandi e delle grandi, ogni tuo sforzo, ogni tua energia, è impiegata a far sì che tu possa mantenere la concentrazione e non lasciarti sopraffare. Così continui a colpire quella pallina, così familiare, perché la conosci da tutta una vita quella pallina, come una forsennata, aggredendola con impeto, assuefatta dal ritmo dei rimbalzi. Poi un giorno il tuo mondo, le tue barriere vengono squarciate da una coltellata, e tu, sola, sai quanto sia difficile tornare sotto gli occhi di tutti, guarita nel corpo ma divisa nell'animo, campionessa nel cuore, fragile nella mente, dove la sfida più grande diventa ritrovare un equilibrio perduto prima ancora che tornare a vincere. Ecco, queste sono le parole di Monica Seles. Monica Seles, che ha raccontato nella sua autobiografia, che ha scritto nel 2010, quello che è accaduto. La sua è una storia esemplare per la nostra trasmissione, perché c'è esattamente una linea che fa da spartiacque tra un prima e un dopo. Quella linea per lei avvenne il 30 di aprile del 1993, 27 anni fa. In questa puntata, in cui si intitola Oltre ogni ragionevole difficoltà, la seconda storia che vi raccontiamo oggi è proprio la sua, è quella di Monica Seles. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nonostante la ferita sia guarita in poche settimane, Monica Seles per 28 mesi evita di calcare pubblicamente un campo da tennis, e una totale confusione la domina internamente. Sono troppe le cose di cui non riesce a capacitarsi, e per lei sembrano non esserci più certezze se non quella che la vita, il circuito WTA, possano andare avanti senza di lei, che ci sia bisogno di lei, come se niente fosse accaduto. La mancata condanna per tentato omicidio del suo assalitore, Günther Parke, la non avvenuta sospensione del torneo di Amburgo e la decisione delle sue colleghe, ad eccezione di Gabriela Sabatini, di non concederle una proroga per il mantenimento del ranking, sono ulteriori ferite che scaveranno dentro di lei sino a divorarla internamente. E questo vuoto Monica cercherà di colmarlo con il cibo, trascinando se stessa nel vortice di un disturbo alimentare che penalizzerà ulteriormente la sua carriera e contribuirà a farla sentire attaccabile da parte del mondo esterno. Racconta così nell'autobiografia: una sola giocatrice si dichiarò favorevole alla sospensione del torneo, Gabriela Sabatini, e non lo dimentico, fu un gesto speciale. Certo, tutte avevano da guadagnarci dal fatto che io rimanessi per un po' lontano dai vertici, ma Gabi mise da parte gli interessi economici e la carriera per compiere un gesto di grande umanità. Le numere uno cambiano, è solo una questione di tempo, ma la tua personalità, il tuo modo di essere, resta sempre quello, e il gesto di Gabriela la rende davvero speciale. Come racconta, cade in depressione e sviluppa un disturbo alimentare che la porta a ingrassare più di 30 kg. You just want to live your life the best way you know how, but they keep on telling you that you are not allowed. They say you are sick, that you should hang your head in shame. They are pointing fingers and want you to take the blame. There are days when people are so nasty and convincing. They say things beyond belief that sting and leave you wincing. And to boot, they say their words straight down from above, and they really seem to think that what they're doing counts as love. This pain, it is a glacier moving through you. Carving out deep valleys and creating spectacular landscapes and nourishing the ground with precious minerals and other stuff. So don't you things seem particularly rough. Riprende a giocare soltanto nel luglio del 1995, nel frattempo è diventata cittadina americana, ma non gioca più nel modo aggressivo di prima. Monica vince il suo torneo d'esordio, il Canadian Open di Toronto, e raggiunge la finale degli US Open, dove incontra nuovamente Steffi Graf e perde un match di incredibile livello agonistico al terzo set. È impossibile non notare il suo disagio, mentre ogni volta che le è possibile stiracchia la maglietta nel tentativo di coprire un fisico ben diverso da quello che tutti ricordavano. Vincerà il torneo, il nono ed ultimo slam della propria carriera nel 96, ma il tormento interiore le farà solo desiderare di poter schermare il proprio corpo, tornare a casa, nascondersi. Durante un servizio, racconta, o quando raggiungevo una palla, le mie cosce erano in piena mostra per il giudizio di tutti. Non avevo mai giocato con quel tipo di autocoscienza prima e l'ho odiato. Più tardi riconoscerà nella bulimia un tentativo di proteggersi. Troppo dure, troppo aliene erano state le dichiarazioni di Parker subito dopo l'attentato. Le donne non dovrebbero essere magre come i grissini, aveva detto. E Monica aveva paura. Dentro di sé non voleva più essere la ragazzina ossuta capace di vincere quasi tutto. Se mi imbottisco con qualche chilo extra, mi proteggerò dall'essere ferita di nuovo, aveva pensato. Nei confronti della Seles si scatena una discriminazione mediatica. La stampa non può fare a meno di catalizzare l'attenzione sui suoi problemi di peso. Il suo gioco, il suo talento passano in secondo piano. Il suo aspetto è più importante. A Wimbledon cede il secondo turno con Katarina Studenikova, numero 59 al mondo. I giornali hanno avuto una giornata campale, racconta, e hanno detto che assomigliava ad un lottatore di sumo. Nel 2003 Monica gioca l'ultima partita da professionista della sua carriera. Non tornerà numero uno, né vincerà altri slam dopo l'Australian Open del 96. Ma per lei si apre una nuova sfida, la più difficile perché non c'è nessun talento che può venirti in soccorso. Riprendere il controllo di se stessa. Una volta sconfitta la malattia, ritrovato l'equilibrio e aver accettato la realtà di quanto sia successo e l'inevitabilità di quanto non si può cambiare, la Seles decide di mettere la propria esperienza a servizio degli altri. Non credo nei rimpianti, racconta oggi. L'accoltellamento di cui sono stata vittima non era necessario e avrei preferito che mio padre avesse seguito anche la seconda parte della mia carriera. Ma ho avuto anche la fortuna di praticare lo sport che amo. Bisogna guardare le cose dalla giusta prospettiva. Ed in fondo è solo questo che conta. Yes, I know it was late. We were greeting the sun before long. And you live with someone. I live with somebody too. Leave it there. For safekeeping. Planes. That was the custom. Come down. On the walls of the day, in the shade of the sun, we roll. Another vision of us. We were the challengers of the unknown. Be safe. you say. Whatever the mess you are, you're mine, okay. That is the custom, I'm down. La storia di Monica Seles, quella che vi abbiamo appena raccontato, l'abbiamo trovata su un sito che si chiama ubitennis.com. Invece la sua biografia l'ha scritta Francesca Moscatelli. Monica Seles, la forza nell'equilibrio spezzato, si intitola questo pezzo. Se avete voglia di andare a scoprire qualche cosa di più su Monica Seles, trovate in questo pezzo molte altre storie su di lei. Il suo libro invece, se riuscite a trovarlo in giro online, qualcosa lo si trova, è pubblicato dalla Libreria dello Sport e si intitola Ho ripreso il controllo del mio corpo, della mia mente e di me stessa, firmato proprio da Monica Seles. Erano esattamente 30 anni fa, erano 30 anni esatti fa quando succedeva questo fatto, perdonatemi, erano 27 anni fa, era il 30 di aprile oggi, di 27 anni fa, ed è una storia terribile quella di Monica Seles. Io ce l'ho nella memoria quelle immagini, non avevo neanche 20 anni e mi ricordo di questo tizio che scavalca ed entra in campo e accoltella letteralmente una tennista che sta semplicemente giocando una partita. È stato un atto atroce, violentissimo, e sicuramente lei lo dice molto bene, sicuramente la stampa non l'ha aiutata. È sempre stata una tennista poco simpatica da un punto di vista dell'appeal. C'era Steffi Graf che era fortissima e vinceva tutto, aveva un fisico perfetto, e lei invece era magrolina e poi faceva sempre questo verso che era fastidioso alla lunga. Quando colpiva la palla sembrava sempre che stesse soffrendo moltissimo Monica Seles, e quindi questa storia, questa sua linea d'ombra, speriamo che sia, l'abbia davvero portata in una zona di maggiore luce rispetto a quello in cui, rispetto a quello in cui si trovava. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare le vostre storie dalla quarantena qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Questo diario della quarantena che sto per raccontarvi è un diario che per la prima volta non parla delle abitudini cambiate, non racconta che cosa accade nella giornata di una persona che o non sta lavorando o sta lavorando da casa, è obbligato a lavorare fuori casa e quindi si premura, mascherine, guanti, eccetera eccetera. No, questa è proprio un'altra storia. Ci racconta però una cosa, ci racconta che il tempo lasciato libero da questa quarantena ci permette di fare altro, ma molto molto altro, magari qualcosa che non immaginavamo, come ad esempio guardare fuori dalla finestra di casa nostra, osservare, se siamo fortunati in questo periodo, devo dire molto fortunati, guardare un giardino, se ce l'abbiamo, guardare le piante di quel giardino e guardare la vita su quelle piante, guardare che cosa succede, come uno zoologo, una persona che studia gli animali, vedere che su quelle piante succedono delle cose. E quindi la storia di oggi non parla di quarantena, parla della storia di una tortorella. Nel giardino antistante la mia casetta ci sono due alberi importanti, una magnolia della specie sempreverde che fa fiori pochi ma profumatissimi e un cedro. Abbiamo notato che sui rami più alti passeri e tortore nidificano. Ce ne accorgiamo quando il giardiniere viene a potare gli alberi, un anno sì e un anno no in autunno. Trova sempre un nido vuoto e ce lo porge.

vita, la vita di Irene, la vita di suo marito. Siamo stati con lei a casa quando la malattia è arrivata, siamo andati prima col marito e poi con lei e in un ospedale, e adesso lentamente le cose finalmente stanno migliorando. Dopo una settimana di terapia, il quadro clinico di Francesco è migliorato. Hanno fatto dei tentativi di staccarlo per qualche minuto dalla macchina e hanno visto che reagiva abbastanza bene. A quel punto abbiamo di nuovo chiesto di essere messi in stanza insieme. Hanno spostato me nella sua camera. Dopo un po' di giorni hanno acconsentito di metterci in camera insieme. E lì è stato proprio un momento di svolta. Le camere sono a due, eravamo solo io e lui. La situazione per entrambi non era molto differente da prima. Entrambi avevamo un letto con un respiratore e le cannule, ma il fatto di essere vicini, di poterci vedere, ha cambiato tutto. Mi sembrava che tutto andasse meglio, ecco, anche se lui ancora era attaccato alla macchina, però erano già passati diversi giorni, lui era ancora stabile, non era successo quindi lo scenario, quello peggiore dell'aggravarsi. Mi sembrava che, insomma, poi uno è lì e deve avere pazienza. Se non fosse stato per il bambino, ecco, a casa, per quel pensiero lì fisso, chiaramente tutte e due il pensiero era fisso a quello. La comunicazione con Giovanni fino a quando non ci hanno messo in stanza assieme era stata un po' scarna. Poi, grazie anche al fatto che entrambi abbiamo cominciato a migliorare, abbiamo ripreso a mandare qualche messaggio in più. Per fortuna i parametri della saturazione dell'ossigeno nel sangue hanno cominciato a migliorare. Gradualmente hanno staccato Francesco dal respiratore, lasciandolo solo con l'ossigeno per aerosol. Anche perché c'era chi ne aveva più bisogno di lui in quel momento. Nel reparto malattie infettive dove stavamo noi, ormai, a parte due pazienti con la tubercolosi, eravamo tutti colpiti da Covid e sentivamo che stavano modificando altri reparti per destinarli a pazienti anche loro colpiti da Covid. La situazione ha cominciato piano piano un po' a migliorare, soprattutto ci si vedeva, quindi si riusciva anche a scrivere a casa, insomma, e l'hanno tolto e ci hanno dimesso quando hanno visto che tutti e due senza ossigeno avevamo valori che andavano bene, insomma. E grazie mille, grazie ancora a Irene per il suo racconto, per la storia che ci sta facendo passo passo, per averci portato con lei in quella stanza, prima a casa loro e poi in quella stanza di ospedale. Adesso il fatto di saperli insieme ci rincuora un pochettino tutti, ci fa stare un pochettino più tranquilli, anche se lei continua a essere in gravidanza, continua ad aspettare un figlio, e anche se hanno un figlio a casa che è fortunatamente curato dalla sorella. Questa è davvero una di quelle storie che ci racconta quante sono le complicazioni legate a questa malattia, non solo il fatto di ammalarsi e quindi di soffrire e di rischiare, ma tutto quello che ci sta intorno, la gestione della famiglia, la gestione dei figli, dei genitori magari anziani, insomma è veramente complicata, è veramente una brutta bestia questo virus che ormai in qualche modo conosciamo, ma le storie come sempre ci aiutano a capirlo un pochettino meglio. Quindi ringrazio lei, ringrazio ancora come sempre Anita Panizza, Luca Micheli, Mauro Pescio e Paolino Corleoni. Lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!